e poi c'è uno sferio che praticamente gli si è rotto un piedino del tappo, uno sferio quelli piccoli, piccoli, un po' grandetto, e il tappo non chiude più perché manca la storia per farlo chiudere, e non gira il CD. Di fare le tappe quando lo vendevi, perché lui ce l'ha mai rotto, ce l'ha bruciato, non ho capito bene, e gli ha messo un benzinato, vera. No. che ha salutato adesso, però nel frattempo stavo facendo altro lavoro, non lo stavo sentendo. Ma non è lontano, meno è vicino. Sembrava quello, come si chiama, Guido Luca, quello della Nurla, così si chiama. Ah, no. Sembrava forte come quello lì. Però, si fa sentire anche lui? Io l'ho ascoltato un attimino, cioè, ho sentito che c'era lui, sentiva bene a Claudio, poi non mi ricordo che ascoltava, blu. Sentito? No, era tipo. Io la prima volta la quando vado il barattino, ho acceso verso le 10, così 10 e un quarto, era tutto muto, non era nessuno. La prima volta quando ho acceso il baracchino io. Sicuramente anche era una roba. No, a meno che tutti non stanno a merda del Sanremo, a me non me la fu tenuta, ma probabilmente qualcuno può essere interessato a Sanremo. A me, ma guarda un film di Stallone, non l'avevo mai visto. Ah, come si chiama? Eia. Anche ma quando sono stato montato. Io mezzo in ganghiera. Più che mezzo in ganghiera, ma di testa, ma di testa la vera. Ma a me mi gira un capo, ma di testa forse del domani, magari, secondo voi che te la dico. In un coso si sono trovati in vita a di ospedale, sono ex poliziotti, tutti alcolizzati. Tutti i bevitori erano. E per la fine gli hanno ammazzato 4 o 5. Questo qua penso che era cioè, tutti tipo appello, morto. Era morto. E poi niente, la persona l'avevano catturato. Si è messo in ginocchio a lui. Pure la persona intera, con questo io questo qua. E poi l'ha ammazzato poi. Mi dava la luce e la piccava. Ma lui non ci sono altro, no? A chi? A Stallone? Se morire tu fini un film, no, lui è riuscito a prendere l'altro, quello che ammazzava la gente, che era quello che gli aveva ammazzato la moglie. L'ha infichito una specie di infuriata, l'ha spinto lì, poi l'ha stato preso e l'ha incastrato in questi ferri, l'ha trapassato. Ma no, ma come sono documentato? Non l'abbia dato. Gaffa. Proviamo a chiamare a Mario. Mario, se si sembra un colpo. Mario, ci sono. Buongiorno, ben sentiti. Ciao Roberto, ciao Luca. Ciao Mario. Ciao Mario, salutone, ben ascoltato, Gava. Sono contento, mi ascoltate sempre bene. È vero, mi è finito di caricare e fra un poco si riparte il combattimento, Roberto. Già un grido, sempre in guerra, così è. E allora, tu hai ripreso il lavoro, staccate l'influenza. Sì, sì, diciamo di sì, al 90%, piano piano, quando arrivo al 100%, adesso siamo al 90%. Ah, no, è passato, insomma, non è tre, è passato un tir. Un macchio, stavo chiamando, non mi rispondeva. A Rai 3. Era disturbato, no, se no se c'era segnale già ti prendevo. Immagini, qui non capisco che lo chiamo, adesso amico, non ti trovi. Ma è vero, la sera di coso, Giulio mi sembra, o Gio Maria, dici, che era di San Giulio, col baracchino spento l'altro, era talmente c'era un segnale potente, dice si muoveva lo smitter del baracchino, c'era un lineare grosso, da 600 watt, abitavano a 200 metri, e col baracchino spento si sollevava lo smitter. Ah, già, sono domenica. tu dove? Ma cognata perché è sposata con tuo fratello? Su quale rete ti ho fatto lo ciclone? Aspetta, ci curate. E lei cosa le va? Solo 42, non so. Ma caffa. Tu puoi arrivare a fare a pizzi, mi sono capisato. Ah, sì. Allora, mi sei sempre risolvendo mai a Rosaletta, te le va a cosa, a baracchino? Non è mio, Ari. Ah, scherzando, dico, no, dico, a livello di fotome. Andiamo registrato, ho notato Mario che praticamente la parte di qui ci sono molti altri nascosti, vabbè, perché l'ho visto la parte ero ieri, ma non è però me, avanti Black. Ciao Luca, ciao Mario, ciao Roberto, tutti sei parti qui, giusto, molto bene. Mario, sei stato benissimo nel radio? Ok, bene, bene, ripeti, vai. KK, ciao Rollaro, come va? Tutto bene? Sì. E qui siamo un po' stanchi, Allora, qui siamo stanchi, ne abbiamo più voglia di faticare. Ehi Mario, cosa ci vuoi fare? Pazienza, già lo sai che i lavoratori ne hanno sempre avuta tantissima, dunque, no, non credo che sia proprio tu che l'hai persa in questo momento. Purtroppo tocca sempre a noi, non è un problema. Vabbè, Giulio sta preparando il gommone, lì, pronto siete ad andare a pescare, stamattina ero con lui e l'ho visto in officina. Ma non ho sentito neanche, infatti lo volevo chiedere per chiedere, per salutarlo, di avere, abbiamo le stesse conoscenze almeno, infatti lo stavo aspettando per quello, per dirglielo. Ok, no, mi ha portato giù in garage stamane perché ha fatto il maniglione per la console del gommone, no? E il maestro dice adesso me devo comprare l'antenna per il VHF, perché lui ce l'ha il VHF, gliel'avevo fatto comprare io, nuovo, per la barca, no? Però ci serve l'antenna. È andato a chiedere, mi è sembrato che c'è un prezzo un po' così, ma non si preoccupare, ci sono tanti negozi, basta andare a girare e l'antenna alta la trovi a prezzo che ti conviene, non ci sono problemi. Le prendi, Robert? Ah, stai parlando di Giulio Grande, no? Questo stai parlando di Giulio mio cognato, tu stai parlando il meccanico, là. Ho capito, No, il manacchino l'ho visto quest'estate, me l'ha fatto vedere e me l'ha fatto anche ascoltare. No, l'avevo chiesto anche io un po' di prezzi, però sono caruccio, là. Sì, infatti. No, e poi stavo dicendo dove attaccarla. Va bene, diciamo che gliel'ho fatto una mezza idea, poi non so se la porta avanti questa idea, non lo so. Comunque, va bene così. Sì, stavo parlando, infatti adesso ero in officina intendevo lui, no? Lo zio e il tuo cognato, in poche parole. Ok, va bene, e prendi Luca. No, qua c'è Giulio, qua c'è un titolo. Questa è la macchina, questa è la macchina. Ma cosa vuole prendere? Cosa vuole fare? Scusate un attimo. Ma no, Roberto, va. Stavo sentendo una, sono due mezza. Signore, ci sentiamo nel prossimo. Ciao Mario, ciao Giulio, ciao Luca e tutti quelli che stanno ascoltando. A stasera se ci sentiamo, se no quando sarà. Ciao a tutti di nuovo. Ciao Robert, buon lavoro, ci sentiamo stasera. Se coincide, se no pazienza. KK, vai Lollaro. Ciao Robert, salutoni, buon lavoro, divertiti. Perché il lavoro se lo prendi come divertimento è più leggero. E spero Mario. KK, se non hai come stamattina che me ne sono facendo uscire gli occhi, per carità. Vabbè, si credono furbi, vuol dire che se bisogna ridurirci, allora lui ti dica. Purtroppo è così Mario, come ti ho detto poc'anzi, se tocca sempre a lui, il lavoratore, cioè quelli che mantengono in piedi il mondo e che faticano tantissimo, perché in realtà siamo noi che manteniamo il mondo in piedi, intanto guadagniamo poco e poi siamo sempre sommersi di grande fatica. E cosa vuoi fare? Fatemi. Il nostro destino è stato quello e poi andiamo avanti così. Vai Luca. Più o meno la temperatura, la sapete quant'è? La temperatura? La temperatura. La mia è 36. Quella di Mario non lo so. Mario, qual è la tua temperatura? Ma io parlo fuori, ho corporea. Ma ho Giulia, ma io lo stai prendendo, fuori non l'ho messo. che croce, 8 gradi, 10 gradi, so. 10 gradi, così poco. Ma che gradi sono la terra da lì? Qui al centro non credo, tu sei in montagna, per forza. No, non era Palino, oh Giulio, non era Palino, l'ha sentito, sono Luigi, tu sei lui. Tante fotografie di questi cavalli di lusso. quello. Mi sentiamo che la disoccupazione dello cavallo. Purtroppo, Mario, la carne come tutto, dai, facciamo un'altra notizia. Comunque, mi spero che non fai, se metti troppo Mario, prefermo, facciamo sullo stomaco, come l'ho mangiata io, sono da anni che non le mangio, l'ho mangiata già anche nel campeggio, l'ho cucinata con questo tipo. Ma te la più prefermo che aglio che carne, proprio che si è messa sullo stomaco. Sto fatto tutta la notte, come fa a dormire, tutta la notte. Davanti che vuole entrare. Purtroppo, quando tagli così con la terra signora ha i mesi. So che non lo devono operare, però non lo so quando e come. Scappa, ma io conosco un altro, non so, è un matto, è sostanziale, perché quel terremoto di quello che anche a me non lo voglio chiamare, cioè un terremoto da fastidio. Oh, che tu non ho capito, se uno dove l'ha arrivato, l'immenso alla bisogna, è un matto. Ma quello lì non lo so, perché la moglie è una incinta. Ah, vero, è che tanto grossa la moglie. Ma non è per quello sto dicendo, tu sai che dire, non dico che mai un tribunale. nessuno, non c'è più nessuno, tutto è di vita.